got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 per parlare insieme a voi, insomma, di immigrazione, di identità, talvolta anche di cucina. Altro che i tempi biblici della riforma della cittadinanza, recentemente abbiamo visto al Festival di Sanremo uno specchio del paese davvero contemporaneo, seconde generazioni che avrebbero da tempo vinto la loro battaglia se fosse stato proprio per il teatro dell'Ariston. Tra gli 8 finalisti della sezione Nuove Proposte, infatti, c'erano proprio 3 figli di persone immigrate. Abbiamo parlato con Vanessa Cécile Ngo-Nung, che è di Roma. Abbiamo sentito la sua voce qualche puntata fa e lei ha proposto un suo brano a Sanremo. C'era stato anche Ermal Meta, che è stato nostro ospite ormai qualche anno fa, diciamo che l'abbiamo scoperto quando era con La fame di Camilla, è italo-albanese, ed è in studio con noi Mahmood. Buonasera. Eccoci qua, buonasera a tutti, ciao. Grazie per essere con noi. Anche tu hai partecipato, insomma, a Sanremo, e anche tu hai una parte di te legata a un mondo fuori dall'Italia, no? Sì, esatto, io diciamo vengo da padre egiziano e mamma sarda, quindi diciamo un bel mix, ecco. Però io sono nato a Milano, nato e cresciuto qua. Tu sei italianissimo, sì, come sì, d'altra sì. parte anche Ermal e Cécile, però ci sembra interessante, insomma, che finalmente a Sanremo è sbarcata la contemporaneità con questa Italia nuova. Sì, diciamo noi giovani ci siamo sbizzarriti abbastanza, ecco. Infatti era anche bello vederci tutti diversi, è stato piacevole, sì. Avete voi stesse, vi siete confrontati su questo? Hai avuto modo di conoscere Ermal e Cécile? Sì, sì, io ho conosciuto entrambi, sia Ermal che Cécile. Devo dire che sono proprio due persone fantastiche, simpaticissime. Io non ci faccio neanche tanto caso alla fine a queste origini, ecco. Io prendo una persona come viene, ecco, senza badare tanto a da dove vengono. Neanche noi ci facciamo caso, però sicuramente è interessante che appunto l'Italia cambia, e cambia anche esatto. nel suo specchio, che è Sanremo. Molto spesso anche uno specchio molto popolare, quindi finalmente arrivano anche le seconde cosiddette generazioni a Sanremo. Tu lo sai per parte di papà, no? Sì, esatto. E tuo papà è egiziano, sì. Di dove? È del Cairo. Mio papà è del Cairo, si chiama Ahmed Mahmoud, però purtroppo non sono riuscito ad imparare niente di egiziano, qualche parolina giusto così ogni tanto, però a casa si parla solo sardo, ahimè, perché vivo solo con mia madre, quindi di egiziano mi è rimasto un bel ricordo, perché ci sono anche stato 2 volte io quando ero piccolo, una volta a 8 anni, l'altra volta a 14, e ho girato tanto, no? Sono andato a vedere anche, diciamo, le piramidi, la Sfinge. Classico giro da turista, sì, invece, esatto, che proprio. Da egiziano. No, però mio papà mi ha fatto anche vedere proprio il centro della città, anche la zona magari meno ricca, ecco, proprio per vedere lui anche da dove è venuto. Abbiamo girato anche spiagge che conosceva lui da piccolo, quindi ho visto tanto, mi è rimasto proprio tanto di quel posto. Quindi hai confrontato le spiagge egiziane con quelle sarde. Con quelle sarde, vabbè, ma lì diciamo il mare è diverso, non è più, cioè. La Sardegna è proprio cristallina, l'acqua lì invece è molto più bello il paesaggio attorno, capito? Sono proprio 2 cose diverse, non si possono paragonare. Sì, sì, hai sì, ancora sì. parenti in Egitto? Li vedi? Li senti? Non li sento, sento ogni tanto mio cugino egiziano su Facebook, però lì c'ho anche tanti zii, tutte le sorelle di mio papà, i fratelli. Che effetto ti fa sentirti definito come seconda generazione? Alla fine... Guarda, io non ti appartiene sì, molto. Cioè, no, esatto, più che altro sono le origini, no? Però a me fa sempre piacere, anche perché è sempre una cosa, io la reputo come una cosa in più, ecco, però non la sento tanto durante il giorno, nella mia quotidianità. Io alla fine sento di essere italiano, sia nel bene che nel male, quindi mi fa piacere quando si parla di origini appunto straniere, perché io lo riconosco anche, comunque, vabbè, i miei tratti somatici lo dimostrano, che non c'ho proprio una faccia da milanese classico, quindi... Mi piace, ecco, che mi si riconosca anche questo fatto, non mi dispiace. E quando appunto si parla di giovani nuovi italiani, no? Che possono sì. avere come te, come nel caso di Cécile, un'origine diversa, tu ti senti di rappresentarli? Sì, In parte, sì. Ti ha mai fermato per strada qualcuno dicendo ah sì, anch'io, no, oddio, mi sono rivisto in te? Ogni tanto mi ferma qualcuno, tipo magari qualche egiziano, arabo che ha visto Sanremo, inizia a parlarmi in egiziano, come se io ho capito da subito, no? Fa, cave Sanremo, ale. Io, guarda, non so parlare molto bene egiziano, mi faccio solo salam aleikum, aleikum salam. Quindi infatti, cavoli, mi dispiace tanto di non aver imparato, però c'è sempre tempo, ecco, nella vita, non si sa mai, appunto. Vivi con la mamma, hai detto? Sì. Quindi col papà hai rapporti, ma insomma non vivi assieme a lui? Sì, ho ancora rapporti, però diciamo mi si sono divorziati quando ero piccolo, quindi... Di solito questo è un invito a cena, quindi chiediamo a tutti di portarci un piatto. Nel tuo caso mi pare di capire che sarebbe più sardo. Sì, più un italiano. Un piatto della tua infanzia, sì, esatto. Un piatto che ti riconosci. Ma guarda, io... Proprio da ieri, no, che mi è venuto questo flash perché li ho tornati a mangiare, appunto sono le melanzane alla parmigiana che mi faceva tipo mia zia in Sardegna, no? Perché io siccome, allora passavo, vabbè, quando andavo a scuola da piccolo facevo l'anno a Milano e poi d'estate mia mamma siccome lavorava mi mandava a casa di una mia zia in Sardegna, così potevo passare tipo un mese in più al mare. E quindi quando andavo da casa di questa mia zia mi faceva sempre le melanzane alla parmigiana ed erano veramente, era tipo il mio piatto preferito. Infatti dicevo sempre a mia mamma di farle, ma mia mamma non me le faceva mai, ovviamente. C'è molta Sardegna, insomma, sì, nella sì, tua sì, vita. Sì, c'è molta, molta Sardegna. E oltre allo studio e adesso al lavoro come cantante, mi pare di capire che hai collaborato con i tuoi genitori anche nel bar di famiglia, ho capito male? Sì, esatto. Diciamo che nella mia famiglia ci sono tanti bar, quindi io... Ovviamente l'anno scorso mi ero iscritto al CPM, facevo lezione il pomeriggio, però siccome non è che potevo sempre chiedere appunto soldi alla mia famiglia, la mattina dovevo trovarmi un lavoretto, quindi ho fatto apertura al bar dalle 5 fino a mezzogiorno e poi andavo a scuola, quindi è stato un anno un po' così particolare tra bar, tazze di caffè e canzoni, pianoforte in salotto, è stato un anno un po'... Canzoni così. Ma anche canto lirico, no? Tu hai studiato? No, io avevo un insegnante che mi dava la tecnica lirica, però facciamo sempre canto moderno, però lui era un cantante lirico, quindi mi dava un'impostazione lirica. Io diciamo ho provato tanti insegnanti appunto, no, in questa mia strada musicale, no? E sono partito così con una base, con un'impostazione lirica. A Sanremo, no? Hai presentato questo brano? Sì, Dimentica. Allora, intanto mi piace il fatto che siamo in tanti oggi in questo studio. E io me lo porto sempre in giro. Abbiamo anche Francesco, che non abbiamo ancora Buonasera. Introdotto, Francesco Fugazza, grazie Buonasera. Per essere, grazie. Grazie a voi. Francesco, per questa partecipazione con la sua bella chitarra, perché insomma io vi chiedevo di improvvisare un attimo se avete voglia. Sì, un po' volevamo fare di una live. Strofa e di Dimentica e ritornello. Ma tra l'altro lui è anche uno dei miei produttori e uno anche che ha prodotto Dimentica, quindi proprio tutti in famiglia. Quindi te lo porti sempre. Al buon Marcello sì, Grilli, sì, che Marcello salutiamo Grilli. Tantissimo. Allora, sentiamo un pezzettino di Dimentica. Sono solo in questa stanza blu. Penso a quanto ho combattuto fino ad ora. A cosa fosse giusto per me. Sono solo in questa stanza blu. Ogni ora sembra l'ora di ieri. Ogni buongiorno bagnato di monotonia. Ora, ora, ora, ora solo non sei. Ore, ore, ore, ore sono le sei. Ora, ora, ora, ora, ora sei. Ora sei, ora sei, ora sei. Solo dimentica. Dimentica. Dimentica. Sul cuscino, dimentica, dimentica, dimentica i baci di Giuda del mattino, quei 100 pugni sul muro, questo mio cuore a digiuno, polvere, ora è polvere. Quel muro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Sono solo in questa stanza blu. Penso a quanto ho combattuto fino ad ora, a cosa fosse giusto per me. Sono solo in questa stanza blu. Ogni ora sembra l'ora di ieri. Ogni buongiorno bagnato di monotonia. Tu molto giovane hai presentato questo brano, anche intenso, sì, per una persona così giovane. Tra l'altro, ormai l'ho detto cane e porci, però l'ho scritto anche in metropolitana questo brano sull'iPhone, così proprio a caso, diciamo, è nato. E spontaneo, solo il ligetto. Testo, sì, poi vabbè, la melodia l'ho scritta 2 settimane dopo col pianoforte in salotto, quindi è stato un po' un brano nato così. Tu sei un cantautore, quindi? Sì, sì, sì, sì. Io canto, me la canto e me la scrivo, ecco, diciamo. E quindi, insomma, fra poco uscirà anche il secondo brano, il secondo singolo. Sì, esatto, tra pochissimo credo uscirà anche un mio secondo singolo, perché noi stiamo lavorando a singoli, non abbiamo voluto far uscire appunto CD a Sanremo, perché comunque io scrivo da 3 anni, questo è vero, però il percorso da prendere anche con una casa discografica non è sempre semplice capire quale sia quello giusto per te. Quindi, diciamo, stiamo tastando, ecco, piano piano capiamo dove muoverci, cosa fare, cosa piace, cosa non piace, però sempre comunque mantenendo un'identità, perché quello è fondamentale. Quindi, ecco, noi volevamo muoverci a piccoli passi e a piccoli passi ci muoveremo. Infatti a breve uscirà anche un EP, ecco, subito dopo questo appunto brano. Questo brano è un po' malinconico, no? A cosa ti sei ispirato? Felice non è. No, diciamo che è un brano autobiografico questo. È un brano che parla appunto di me, del mio percorso sia artistico che umano, ecco. Il mio dimentica, più che appunto un messaggio da lanciare, è un grido, ecco. In realtà il vero messaggio che ci sta dietro questa canzone è semplicemente il fatto di non mollare mai. Cioè, se uno ha un obiettivo nella vita non deve farsi influenzare appunto dai giudizi esterni, dai pareri esterni. Bisogna sempre concentrarsi al massimo e focalizzarsi appunto su un punto preciso. E dimentica appunto parla di questo. Quindi un percorso lavorativo, diciamo, non tanto di una storia d'amore invece, sì, che ecco, di vediamo, una terra lasciata. No, nel mio caso si parla di musica, ecco, io è brutto, io non vedo la musica come lavoro, anche se sta iniziando a diventarlo. Quindi ecco, una storia d'amore, insomma, parli di una storia d'amore. Esatto, sarebbe una storia d'amore. Esatto. E di un tentativo di emergere, perché immagino non sia per niente facile, no? Guarda, a me Sanremo è stata veramente una botta di fortuna, far sentire a tantissimo pubblico appunto un po' quella che è la mia storia, mi ha reso tanto felice, ecco, e spero appunto di continuare. Non è mai facile, ma credo per qualsiasi cosa non sia mai facile, però io ce la metterò tutta, ecco. Sto impazzendo in questa stanza blu. Chiudo la porta, le finestre, non so più ridere. Ora solo non sei. Ore sono le 6. Dimentica. Com'è stato trovarsi su quel palco? Perché è un palco anche simbolicamente pesante, sì, anche sì, se sì, non sì. è grande fisicamente, mi raccontavano. Infatti in un'intervista ho continuato a dire che era piccolo, infatti me l'hanno preso per scemo da casa, però ero veramente scioccato perché era piccolino, no? Però vabbè, l'aria che si respira là sopra è proprio un'altra, cioè proprio un'altra sfera di emozioni, perché diciamo che io la settimana delle prove non avevo capito proprio bene ancora tutto, no? Infatti le prove non erano andate proprio al top, diciamo. E quindi dopo tre volte che comunque sono stato lì a fare le prove, ho iniziato a capire gli spazi, che dovevo un attimino caricarmi, non farmi spaventare. Quindi infatti la sera io sono soddisfatto di come ho cantato, ecco. Ed è andato appunto anche bene, anche perché sono poi passato in finale. Però veramente non ti rendi mai conto di che occasione hai, no? Finché non la vivi, finché dopo passano un po' di giorni, dopo che l'hai vissuta, e ti rendi conto, no, da Ma fuori. Tu da piccolo Sanremo, no? Anche simbolicamente lo seguivi, perché è il classico spettacolo che si segue in famiglia per l'italiano medio. Ad esempio con la mamma immagino di sì. Il papà aveva un approccio di che tipo con questo palco? E cosa ti ha detto in questa occasione? Sì, guarda, comunque anche con mio papà lo vedevamo Sanremo da piccolo, soprattutto vabbè, anche con mamma, tutti in camera così. E lui, siccome io avevo fatto anche X Factor, no? Lui comunque è sempre felice, appunto, mi sentiva cantare, cantavamo sempre in macchina, no? Quando mi accompagnava in piscina metteva queste musiche arabe in macchina, no? Tipo scale egiziane impossibili, no? Io dicevo papà cambia, tipo papà cambia, no, questa è la migliore cantante d'Egitto, Alessa. E quindi abbiamo questo rapporto un po', sempre è bello, comunque se mi piace la musica credo sia merito della mia famiglia. E queste tue radici, tu dici appunto a merito della tua famiglia, ma ti hanno mai ostacolato? Ti è mai sembrato che ti abbiano ostacolato in qualche maniera nel tuo percorso di vita e anche professionale? Beh, diciamo che non è stato un cognome facilissimo, Mahmood. Alle medie mi chiamava. Però adesso l'hai assunto, tu ti chiami Alessandro, sì. Ma l'hai assunto anche come nome d'arte. Sì, proprio. Esatto. Ho dato un altro significato ovviamente al mio cognome. Ho tolto una U, messo un'altra O e sarebbe Mahmood, no? Il mio stato d'animo in inglese. Quindi diciamo per dare un po' un'altra atmosfera un po' più internazionale. Una fusion, però, insomma, tra, sì, il tuo, esatto, cognome e, esatto, significato, esatto, inglese. Esatto, che in realtà è bastato poco, solo ho cambiato una lettera. Però diciamo che sì, vabbè, alle medie mi chiamavano tipo Manny, come il mammut dell'era glaciale, mammut, vabbè, disagi proprio collettivi. Ma questo per il nome o per le, diciamo, radici egiziane? No, per il cognome, vabbè, per che è un po' egiziano però, no? Quindi è tutto ti collegato. Ti chiedevano, c'erano mai situazioni imbarazzanti in cui ti chiedevano oppure ti sentivi diverso? Ma sai perché? Semplicemente per il fatto che mi è sempre capitato sia nelle mie classi che c'era qualcun altro, appunto, di origini appunto più egiziano di te. Sì, esatto, c'è sempre qualcuno più egiziano di te, più terrone di te tra virgolette, ecco. Però diciamo no, non mi è mai pesato a livello emozionale questa l'impressione cosa. È che possa anche essere una cosa che può andare di moda in questo momento, che ci possa essere anche un gioco. Ma sai che io la vedo proprio come una, cioè, mediatico. Io mi sento proprio un po' più alla moda con questo cognome. Lo so che sembra scemo da dirlo ovviamente, perché un cognome non è che ti rende più di moda, però cioè così, no? Mi sta piacendo. All'inizio non mi piaceva avere tanto. Ormai è talmente diffuso, talmente radicato nell'Italia di oggi, che probabilmente inizierà a essere anche un trend. Io ho trovato singolare che nelle nuove proposte ce ne fossero addirittura tre persone che in qualche maniera potevano rappresentare. Ermal Meta è una storia diversa perché lui è arrivato che aveva 10 anni. Tu sei nato in Italia? Sì. E Cecilia anche è nata in Italia, quindi insomma siete italiani, siete cresciuti qui, questo fa la differenza chiaramente. Però è interessante o no? No, ma te l'ho detto, cioè è proprio comunque, cioè io non lo vedo proprio come una moda, ecco, perché è brutto fare delle proprie origini una moda, perché io lo vedo come una roba più personale, appunto. La moda mi sembra un po' superfluo, però mi ci trovo proprio, mi piace tantissimo. Infatti tant'è che all'inizio io da piccolo non avevo un bellissimo rapporto con il mio cognome, perché comunque ogni volta a fare lo spelling, a spiegare come si scrive, così avevo, ti dirò, ho avuto anche voglia di prendere il cognome di mia madre qualche volta, solo per questioni di comodità alla fine, non che mi pesasse. Però col tempo ho capito, anche grazie comunque a X Factor, ho capito che questo cognome alla fine mi avrebbe in un modo aiutato, non so come, non so quando, però... C'è un fascino comunque, sì, straniero. Mi ci sono affascinato col tempo, ecco. A X Factor te ne sei reso conto? Un anno dopo, sì, perché avevo lavorato con Pierpaolo Peroni, che è un altro produttore italiano, e avevamo fatto una canzone in inglese e loro come nome per questa canzone, come nome cantante, volevano Mahmood, no? Proprio come il mio cognome. Io no, ma perché Mahmood? Tutti no, ma guarda che bello. Poi a vederlo così su iTunes, sull'immagine sotto la mia foto così, mi è piaciuto. E quindi è nato un po' così per caso, ecco. Quindi c'è la percezione, insomma, che ci possa essere un carisma che arriva anche dall'avere una parte di te un po' più esotica, tra virgolette. Vabbè, anche la Sardegna comunque non scherza, diciamo, siamo proprio da una spiaggia all'altra, quindi... Senti, quali sono i progetti adesso? Adesso, allora... Questo nuovo singolo? Sì, uscirà questo nuovo singolo, e niente, adesso stiamo andando un po' per radio a farci appunto conoscere, perché ovviamente siamo giovani, quindi... Cioè, sono giovani appunto, e quindi non è sempre facile per un giovane emergere in Italia, ma io ci credo, quindi lo so che non è facile, però... Adesso stiamo appunto, fra un po' usciranno anche delle date, sia a Roma che a Napoli, a Firenze, a Milano, usciranno un po' di date che poi pubblicherò su Facebook, e sono molto felice perché io amo tantissimo appunto il contatto col pubblico, no? Quindi non vedo proprio l'ora di andare in live, infatti con la mia band stiamo provando tipo da 2 anni, ma ancora non abbiamo avuto appunto occasione di fare concerti, e questo per me è molto importante, molto bello anche. Solo non sei ore sono le 6. Ritorno sulle tue origini egiziane, perché chiaramente, sì, questa non è una radio musicale, anche se ci è piaciuto tantissimo il live, e ci piace il tuo singolo per ora, poi ascolteremo il resto, ma ovviamente noi prendiamo spunto proprio per parlare anche di attualità e dell'Italia certo. che cambia, e in questa Italia che cambia abbiamo seguito e stiamo seguendo quello che accade in Medio Oriente. Tu come l'hai vissuto queste primavere arabe, ad esempio in Egitto c'è stato molto movimento negli ultimi 2 anni, e adesso c'è una situazione in realtà con Al-Sisi abbastanza bloccata e anche tesa con l'Italia per Regeni e tutto quello che è accaduto. Segui questo genere di cose o non sei interessato? No, allora io chiaramente ogni tanto seguo anch'io il telegiornale così, e diciamo che sono sempre un po' preoccupato appunto per queste situazioni che non sono belle, sia da sentire che soprattutto da vivere. E quindi immagino appunto anche comunque avere parenti lì, ci penso io ogni tanto a queste cose, e immagino appunto che non sia per niente facile vivere una situazione del genere. So solo che, cioè, mi verrebbe ogni tanto da chiedere come si potrebbe cambiare appunto questa situazione, come intervenire appunto da fuori, anche se non è facile per chi ci sta dentro, immagino per chi ci sta fuori, quindi sono proprio situazioni brutte sia da vivere appunto che da vedere, ecco. Quindi il tuo è un atteggiamento più da spettatore, anche sì. perché ci dicevi appunto che hai dei parenti lì, ma insomma non avete degli intensissimi rapporti. Sì, ecco, io ogni tanto sento appunto i miei cugini appunto nei social, da Facebook, così, Mahmood e Mustafa, e appunto... Che impressione hai tu, che sei un po' più vicino a loro appunto, di questo Egitto un po' militarizzato, con cui noi abbiamo splendidi rapporti anche commerciali, però di recente ci sono state delle tensioni, si ha l'impressione che anche la stampa sia un po' soffocata, ti raccontano qualcosa di questo? Guarda, no, ti dirò la verità, loro cercano più che altro di non di andare avanti. Come i giovani la momento. Vivono come una questione proprio di andare avanti, di non soffermarci su questo, perché se poi alla fine ci si sofferma troppo si rischia appunto di annegare anche un po' nella paura, in questo stato di che non è bello vivere appunto. Quindi ti dirò, io con i miei cugini parlo proprio di tutt'altro, ecco, mi raccontano appunto delle loro cose nuove che stanno facendo, dei loro nuovi lavori appunto, che vogliono anche venire ora. Un mio cugino egiziano, Mustafa, sta lavorando appunto per delle linee aeree, no? Quindi sta anche facendo un po' l'hostess così, appunto sta iniziando a girare il mondo, perché prima appunto del mese scorso lui non aveva mai appunto avuto l'opportunità, soprattutto perché è lì, capito, con la storia dei passaporti non è sempre facilissimo. Mi cercano di andare avanti, giovani. Io credo da un certo punto di vista che sia anche meglio così, perché se ci si sofferma troppo su queste cose si rischia proprio di affossare nella paura, quindi preferisco anch'io questo punto di vista. Allora in bocca al lupo per il prossimo singolo e anche per l'album magari, no? Quando uscirà. Dai, certo. Grazie mille. Grazie a Mahmood, Alessandro Mahmood, che è stato con noi questa sera. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Anche a Francesco Fugazza. Grazie a voi. Per la chitarra, per questo accompagnamento musicale, e a Filippo Reggi in regia per l'assistenza tecnica. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata. You've got to give a little. That's the glory of life.